scusa non ho capito, e ripete che cosa avevi da fare. Ho capito che non ho capito nulla. Di tanto importante da non poter proprio rimandare. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Sì, anch'io non ho capito nulla, però avevo una curiosità da chiedere. Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Che ignoranti che siamo. Siamo due capre, posso dirlo? In geografia zero, sotto zero. Non ho aggettivi per definirvi, ve li hanno già detti tutti praticamente. Ti voglio bene. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Avanti, continua. Ancora uno. Coraggio, l'ultimo. Bene. Che fatica. Molto bene. Grazie per l'allenamento. Questo non era l'allenamento. Non era l'allenamento? Era il pre-riscaldamento, che precede il riscaldamento, al quale segue il pre-allenamento, che prepara all'allenamento e termineremo con il post-allenamento. Mamma mia, una gran fatica solo ad ascoltare questa modalità adottata da questo allenatore. Ma intanto anche io oggi, anche se non c'è Nicoletta a supportarmi, voglio invitarvi ad una seduta di allenamento e speriamo di poterla fare in maniera adeguata. Faremo ginnastica insieme, ma non alleneremo i muscoli, alleneremo il nostro cervello. È facile, è divertente ed è anche molto redditizio. Fate attenzione perché le iscrizioni al nostro corso sono aperte. Chiamate il nostro numero verde, mettetevi in gioco. 800 24 00 24, così in forma e scattanti. Come ogni giovedì andremo anche a scuola, in palestra di Risparmio. Dalle 11.45 avremo il nostro consueto appuntamento anche con Investire Informati e oggi torneremo a concentrarci sulla visione di lungo periodo del nostro risparmio. Ci chiederemo quando, poco a poco, si può mettere da parte, arrivando anche a creare un risparmio importante ed utile che forse non immagineremo magari in questo momento, perché anche questa, fate attenzione, è una questione di allenamento per ottenere nel tempo, con piccoli passi, risultati significativi. E anche su questo punto noi vi coinvolgeremo e giocheremo con voi. 800 24 00 24, cominciamo allora ad allenarci. Sai che ti dico? Prima tu. Ehi, arbitro, palla! Evviva, ho vinto. Insomma, ne valeva la pena. Dici che valeva la pena di ridurci così? Noi stiamo andando al fast food, volete qualcosa? Del ghiaccio! Allora, quella situazione in cui praticamente l'acido lattico ce l'abbiamo fin sopra le orecchie, a chi di voi non è mai capitato magari di così cimentarsi in qualche allenamento che non ha mai fatto prima, pur essendo magari dei grandissimi sportivi? A me capita, qualche volta faccio una lezione diversa in palestra e mi fanno male persino dei muscoli che non ricordavo neanche di avere. Noi non vi chiediamo di arrivare a questo punto stamattina, non vogliamo sentire né lamenti né indolenzimenti. Come vi avevamo promesso, oggi facciamo una seduta di allenamento, ma non per il nostro fisico, bensì per il nostro cervello e la nostra mente. Per cui chi meglio del dottore Iannoccari, del professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Asso Mensana, poteva aiutarci in questo lavorone stamattina. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, Deborah, e a tutti gli ascoltatori. Già di la Radio vedo, 24. Non ha portato attrezzi, niente, quindi già mi sono rassicurata. Però vedremo un po' stamattina che tipo di allenamento ci tocca. Allora, oggi peraltro dobbiamo essere molto concentrati perché nella seconda parte della trasmissione abbiamo Investire Informati, per cui concentrati, veloci, scattanti, ma anche un po' creativi. Lei ci farà da coach, sveglierà il nostro cervello che, secondo una ricerca pubblicata, mi dica peraltro se lo pronuncio correttamente, sul Journal of Neuroscience, Perfetto. Ecco, si addormenta a nostra insaputa fino a portare ad una perdita improvvisa ed imprevedibile del controllo degli impulsi quando siamo molto molto stanchi. Ne parlavamo proprio a microfoni spenti. Io quando sono stanca, non sono stanca e basta, ma inizio proprio a sragionare con la S davanti. Professor Iannoccari, è molto grave. Mi fa fare un esercizio per capire se il mio cervello è sveglio o un po' addormentato? Beh, sicuramente Deborah, il suo cervello è sveglissimo, come lo è quello di tutti i nostri ascoltatori. In questo momento i cervelli sono più che attivi. Ma è vero che quando ci si sente stanchi, le parti del cervello che si addormentano prima sono proprio quelle che durante la veglia lavorano di più, ossia quelle che costituiscono la nostra cabina di regia, il nostro regista interno, ossia quella funzione che controlla e governa tutto ciò che facciamo coscientemente. Per cui l'andamento di tutte le attività che svolgiamo, come guidare, preparare qualsiasi attività, lavorare, eccetera. Preparare scalette per Cuore Denari, per esempio, insomma, noi lo logoriamo proprio, il nostro povero cervello, anche voi, se ci divertiamo. Sì, però. Avete la mia massima ammirazione perché siete bravissime. Grazie. Comunque, a conferma dei risultati della recente ricerca che menzionava lei, dell'Università di Pisa, dell'Università del Wisconsin, indicano proprio che quando si è stanchi diminuisce il controllo razionale sugli impulsi anche. In quel caso si è più inclini a commettere azioni scellerate e anche violente. A livello cerebrale, questa cabina di regia è posizionata nelle aree prefrontali, per capirci, proprio dietro la nostra fronte. Insomma, mi piace questa immagine del nostro cervello come regista delle nostre azioni quotidiane. Magari, insomma, questa regia verrà fatta anche un po' insieme al cuore, speriamo, non tutto è razionale. Ma si può capire se questo regista, professor Iannoccari, sta facendo un buon lavoro oppure se si sta addormentando a nostra insaputa? Dobbiamo essere capaci di intercettare qualche segnale? Sì, Deborah, diamo una buona notizia. È possibile effettivamente in qualsiasi momento testare l'efficienza del nostro regista. Se vuole possiamo farlo anche adesso con un esercizio. Facciamolo subito, perché lei sa che ai nostri ascoltatori piace moltissimo. Anzi, se c'è qualcuno che vuole candidarsi in questo esercizio, 800 24 00 24, vi metteremo alla prova per capire se avete un regista un po' addormentato in questo momento che non fa il suo lavoro adeguatamente. Allora, ci dica cosa dobbiamo fare. Testiamolo, facciamo così, proponiamo ai nostri ascoltatori di partire da un numero e contare all'indietro saltando di 3 in 3. Ad esempio, si parte da 70 e si conta all'indietro 70, 67, 64, 61, eccetera, fino al numero più vicino allo 0. Vogliamo provarci? Vuole provarci con me? No, perché adesso no, perché sa che poi, essendo in diretta, magari la concentrazione lascia un po' a desiderare, però... Allora proviamoci con i nostri ascoltatori. Ottimo. Allora, daremo il numero di partenza e cronometriamo il tempo. Daremo 15 secondi e in questi 15 secondi, finché non diremo stop, si dovrà contare all'indietro, partendo dal numero che adesso daremo. Okay. Il numero sarà 50. Via, in 15 secondi torniamo indietro. Perfetto, allora magari che cosa facciamo? Prendiamo qualche ascoltatore in diretta, glielo facciamo fare, poi magari diciamo invece di 50 un altro numero, oppure adesso glielo facciamo fare silenziosamente, senza barare, devono dirci... Sì. Se sono riuscite ad andare indietro, esatto, in 15 secondi, quanto hanno fatto, che tipo di risultato, sì, come valuterà insomma il loro comportamento. Diamo lo stop. Mi piace molto la sua idea di farlo fare in diretta. Mi vuole prendere ad asso menzana, professore Iannoccari. Molto volentieri. Ha visto? D'altronde, dopo quasi 2 anni di Cuore e Denari, anche noi abbiamo allenato reciprocamente, io e Nicoletta, il nostro cervello in campi diversi, su temi diversi. Devo dire che probabilmente abbiamo fatto degli esercizi che ci hanno prodotto dei risultati, forse dei quali non siamo consapevoli, e lei, sì, però. E si sentono e si vedono. Vedo, sì. Vero. Grazie. Allora, siete pronti? In 15 secondi contate all'indietro partendo da 50 e poi all'800 24 00 24 raccontateci chi è riuscito a contare all'indietro da 50 a quanto, professore? A due in meno di 15 secondi. Fateci sapere se a quest'ora il cervello è sveglio e attento, non barate. Professore Iannoccari, l'esercizio che ci ha proposto utilizza i numeri, ai quali naturalmente noi siamo molto affezionati perché parliamo spessissimo di risparmio, ma a questo proposito, per decidere se e come risparmiare, visto che è un tema che ci piace molto. Risparmiare peraltro è difficile, molti italiani fanno molti sacrifici pur di mettere da parte qualcosina alla fine del mese. Parlavamo proprio della difficoltà di arrivare alla quarta settimana con lei a microfoni spenti, ma il nostro cervello, per fare questo lavoro, oltre ad avere qualche cosina in tasca nel portafoglio, deve essere anche una questione di allenamento. Il cervello deve essere sveglio, dipende però immagino anche dal carattere della persona. Sì, Deborah, in effetti ci sono persone che a parità di condizioni, diciamo, di prontezza, eccetera, sono più propense a spendere subito il proprio denaro ed altri invece a risparmiarlo e a metterlo da parte per il futuro. La spendita dei soldi solitamente comporta una gratificazione, poiché a fronte dell'esborso di denari si ottiene un oggetto che desideriamo. Quindi i soldi diventano un mezzo per ottenere una gratificazione. Il punto cruciale sta proprio nella capacità della persona di tenere a bada il desiderio di ottenere una gratificazione immediata, oppure decidere di posticiparla in futuro. Ma è meglio un ovo oggi o una gallina domani? Ci domandiamo. Ecco. Walter Mischel della Columbia University ha condotto degli studi sulla personalità dei consumatori e ha dimostrato che essere un risparmiatore o meno è semplicemente una questione di capacità di prevedere le conseguenze che derivano dal risparmiare. Se risparmio, quali benefici avrò? E se non penso al futuro, probabilmente spenderò più facilmente i miei denari oggi. Guardi, è un tema che piacerà moltissimo, poi glielo chiederò in diretta all'ospite a cui lei passerà il testimone più tardi. Molto bello questo tema del meglio un uovo oggi che una gallina domani, perché c'è chi effettivamente ha questo atteggiamento da cicala, chi invece c'è la formichina esagerata. Bisognerebbe chiaramente trovare un po' un buon compromesso fra i vari atteggiamenti possibili, ma in ogni caso, ritornando al nostro test, 800 24 00 24, numero verde per gli ascoltatori che vogliono cimentarsi nel arrivare da 50 a 2 saltando di 3 in 3 facendo questo percorso a ritroso. C'è un ascoltatore che dice, un'ascoltatrice, Paola, ho fatto fino a 0 in 15 secondi, è possibile, professore Iannocari? Sì. Quindi da 50, perché sì, a 0? È arrivato a 2 e poi sì, per dire che è arrivato al limite minimo, al risultato. Sì, molto. Quindi bene. Insomma, è testato che si possa fare in 15 secondi questo percorso. È testato che si possa fare in 15 secondi. Se poi vogliamo allenare la nostra capacità di essere pronti, attenti, efficaci e veloci, possiamo anche provare a ridurre il tempo, quindi provare a portare il tempo a 13, a 12 secondi e così via. Più aumenta, però è necessario partire sempre da un numero diverso, altrimenti poi ci si ricorda il conteggio. Se non lo rendiamo un po' difficile, che esercizio è? Enza da Palermo, la nostra prima ascoltatrice candidata ad intervenire oggi all'800 24 00 24. Enza, benvenuta. Grazie molte di avermi richiamato. Grazie a lei. Io sono una vecchia signora di 82 anni. No, non dica così, perché lei intanto ha una voce stupenda e nessuno avrebbe mai pensato. Peraltro ha un'età che, guardi Enza, ricorrerà più volte nel corso della nostra trasmissione, glielo anticipo già, quindi ci segua fino alla fine. Grazie, grazie a lei. Ci dica. Volevo fare qualche test appunto per vedere, io ritengo che il mio cervello ancora sia ben allenato eccetera eccetera, però sicuramente sottoponendomi ai test del professore Iannocari farò un crollo totale. Volevo verificare. Guardi, a giudicare se io ho un pochino di istinto adeguato, Enza, lei in realtà oggi farà una buonissima figura, un buon allenamento e ascoltarci certamente tutti i giorni. Abbiamo così, seduta stante, glielo faccio fare, professor Iannocari, un buon test per Enza, perché vorrebbe mettere alla prova la prontezza. Della sua cabina di regia. Sì, intanto dall'eloquio di Enza direi, ecco, che veramente che ci dà il 4 di picche a tutti e due. Sì, ci bagna il naso sicuramente. Esatto. Intanto diciamo, ecco, una cosa che non ho detto prima, ma avrei puntualizzato: per ogni lustro in più di età, a partire dai 60 si aggiunge un secondo, per cui dai 60 ai 65 i secondi saranno 16, poi 17, 18, 19, abbiamo nel caso nel caso di Enza sono 20 secondi ed Enza sicuramente. Ecco, batterà, cosa le possiamo far fare allora? Tempo. Enza vorrebbe farne uno di test. Cambiamo il numero magari con il percorso a ritroso? Ma possiamo anche, per esempio, chiedere ad Enza, se se la sente, di dirci di fare lo spelling del suo nome al contrario. Ah, Enza, ha sentito? Sì, però c'è un errore, io non mi chiamo Enza ma Elsa. Ah, Elsa. Elsa. Bene, ha visto. Non sfugge nulla, niente. Ma giustamente avevamo avuto qualche piccolo intoppo al centralino, ma non è un problema. Elsa vuole fare lo spelling del suo nome al contrario, peraltro 4 lettere, non è difficile e abbiamo già dato tutto il tempo necessario a rifletterci. L-L-A A-S-L-E. Ah, benissimo, benissimo. Elsa vuole fare anche il contrario di radio? Di radio O-I-D-A-R. Allora, qua dovrebbe scattare un applauso se lo troviamo in regia. Elsa, noi la ringraziamo moltissimo per esserci venuta in soccorso questa mattina. Grazie dell'applauso, proprio per dare dimostrazione ai nostri ascoltatori, insomma, che ci cimentiamo molto volentieri in questi piccoli test. Soprattutto grazie per aver chiamato e per averci dato prova del fatto che, insomma, tenendo allenato l'esercizio, immagino che Enza per tutti i suoi 82 anni lo abbia fatto adeguatamente, no? Professore Iannocchi. Sì, assolutamente. Ha fatto anche, gli abbiamo proposto due esercizi cattivelli, ed è riuscita benissimo. Sì. Anche se il suo nome è composto solo di 4 lettere, lei lo giudica comunque un esercizio complicato. Sì, poi abbiamo provato con le 5 di radio, è comunque andata benissimo. Ecco, ottimo, grazie. Allora 800 24 00 24, se anche voi volete fare la stessa cosa. Fra un po' sentiremo Anna da Milano, ma in questo periodo, tornando un po' alla questione dell'allenamento e il risparmio, professor Iannocchi, non è facile risparmiare, lo abbiamo ribadito prima, ma ormai è, come dire, un ritornello che ribadiamo da anni. Eppure ci sono persone che spendono tanto anche se potrebbero risparmiarne una parte. Allora, voi preferite un uovo oggi o una gallina domani? Lo ribadisco anche agli ascoltatori, fateci sapere quali sono le vostre preferenze all'800 24 00 24, perché esistono zone del cervello dedicate al risparmio, professor Iannocchi. Sì. Anzi, te la faccio come domanda questa: esistono? Sì, esistono, sono state individuate attraverso l'uso della risonanza magnetica funzionale e si è visto che le persone che sono propense o meno al risparmio hanno l'attivazione di determinate aree del cervello. In particolare sono aree che si trovano, come dicevamo prima, dietro la fronte, nelle aree prefrontali e anche nello striato ventrale. Per dirla in breve, si è rilevato, ad esempio, da uno studio condotto dal neuroeconomista Paul Glintzer della New York University, che le persone che sono propense a spendere subito i propri denari, quando gli viene proposto di ottenere una somma e di poterla spendere subito, queste aree si attivano molto velocemente. Se gli si dice che questi soldi li ottengono subito, ma li potranno spendere a distanza di tempo, l'attivazione di queste aree diminuisce. Quindi c'è una sorta di resistenza che viene creata attorno a questo concetto. Sì, c'è meno piacere a sapere che questa somma si spenderà in futuro. Siccome noi vogliamo provare piacere, per cui non poterlo fare subito affievolisce questo desiderio. Ci provoca dispiacere un atteggiamento meno piacere. Invece le persone che sono più parsimoniose, che tendono a risparmiare eccetera, hanno un'attivazione uguale, identica in tutti i casi. Ad esempio, se gli si dice che possono spendere subito anche a distanza di un periodo lungo, queste aree non si attivano nello stesso modo. La particolarità è che sono felici lo stesso. Certo, ma se ci fossero all'ascolto, professor Iannocchi, delle persone che si sono riconosciute in questo primo atteggiamento, no? Quello di resistenza a fronte di una eventuale spesa possibile ma procrastinata nel tempo, ci sono anche delle cure se queste persone volessero in qualche maniera modificare questo loro atteggiamento, perché lo riconoscono come, non dico sbagliato, ma qualcosa da superare. Che cosa si fa? Si allena il cervello? Non esistono medicinali, immagino. Ecco, io sarei contento se potessimo benissimo affrontarlo anche in un'altra puntata questo argomento, perché mi ha fatto una bellissima domanda che è molto articolata, molto ampia anche nella risposta. Si lavora a livello sia neurocognitivo ma anche a livello psicologico, perché ci sono determinate componenti che possono indurre una persona a spendere subito il proprio denaro piuttosto che a conservarlo, e ci sono gli estremi in entrambi i comportamenti, per cui c'è anche una caratteristica di personalità che può essere che può essere modificata. Ma la notizia positiva è che comunque si può modificare l'atteggiamento, soprattutto puntando su quelli che sono i benefici e le gratificazioni future, va bene, nel fare un sacrificio oggi. Ricordiamo che tutto questo è anche oggetto di studio della finanza comportamentale, che in questi anni ha fatto dei passi avanti incredibili, e ci abbiamo addirittura anche un premio Nobel che si è guadagnato questo titolo proprio per aver studiato gli atteggiamenti delle persone di fronte all'argomento risparmio, denaro e quant'altro. Banalizzato molto, insomma, però per chi fosse curioso può andare certamente a ricercare anche gli studi su questo tema. 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione. Fra un po' sentiremo Anna da Milano, Giulio da Savona, ma prima di tutto sentiamo i mercati. Sentiamo i mercati. Cuore e denari. Goccia dopo goccia nasce un fiume, un passo dopo l'altro si va lontano, una parola appena e nasce una canzone, danza, ho detto per caso un'amicizia nuova. Goccia dopo goccia nasce un fiume, da un fiume si arriva al mare, e anche un risparmio può crescere fin da quando si è piccoli come i protagonisti di questa canzone. Spesso non ci pensiamo, ma anche un gruzzolo che ci sembra di pochi spiccioli, se moltiplicato giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, e se investito nel modo corretto può diventare davvero qualcosa di importante. Ci avete mai riflettuto? La vostra cabina di regia, il vostro cervello, come si pone di fronte a questo argomento? È il grande tema che abbiamo affrontato nella prima parte, stiamo affrontando in questa prima parte di Cuore Denari, ma che oggi ci dà un assist perfetto per anche affrontare la seconda parte di Cuore Denari, quella dedicata ad investire informati. Quanto riuscirete o riuscireste a mettere da parte in una settimana tagliando qualche spesa superflua? Avete mai fatto il calcolo di quanto vi potrebbe consentire di mettere da parte in un'ottica temporale lunga? E allora ragionate per qualche minuto su questo tema e poi le vostre riflessioni condividetele con noi all'800 24 00 24. Intanto io do subito il benvenuto ad Andrea Pennacchi, amministratore delegato e direttore generale di UBI Pro America SGR. Buongiorno Debra, buongiorno a tutti. Che ho fatto entrare qualche minuto prima in trasmissione perché so che lo stanno già appassionando molto gli argomenti che stiamo affrontando col professor Iannocari, vero? Molto molto interessanti. Sono i temi che in questo momento risultano proprio al centro dell'attenzione della vostra società, l'abbiamo detto in molte altre puntate, anche presentando la vostra ricerca. Io futuro. Molto importante, sono degli studi che hanno attivato tante riflessioni in termini di come aiutare poi gli investitori a dominare queste loro difficoltà proprio di focalizzazione. Pennacchi, professor Iannocari si esercita veramente alla grande ogni giorno con il suo lavoro, per cui è allenatissimo. Beh, ma è bello questo mettere insieme le conoscenze neurocognitive con l'economia e la finanza. Sicuramente. Benissimo. Sì. Ci vuole calma, è sangue freddo, calma, oh yeah. Ci vuole calma, è sangue freddo, oh yo yo, oh yo yo. Ci vuole calma e sangue freddo anche per capire come lavora il nostro broker mentale, che cosa sta decidendo di fare per guadagnare la somma di 100 euro proposta dal professor Iannocari. In realtà questo sarebbe stato l'oggetto di un nostro test, allora tenetevi a mente questa cifra, 100 euro, fra un po' appunto ne parleremo con Iannocari, perché utilizzeremo questa cifra per sottoporvi ad un altro test. Ma professor Iannocari, il nostro cervello gioca un ruolo dominante nella gestione del risparmio. sostegno, ci siamo soffermati a lungo su questo tema nella prima parte del programma, si potrebbe dire che come il regista questo è il nostro broker finanziario. Ma come broker non fa sempre bene il suo lavoro. Se il suo compito è farci guadagnare, in realtà decide lui che tipo di guadagno vuole ottenere. Potrebbe desiderare di ricevere una gratificazione immediata e quindi farci spendere subito del denaro piuttosto che farci risparmiare per spese future. Questo significa allora che siamo in balia del nostro broker mentale, il nostro cervello. Stamattina abbiamo definito davvero in ogni modo, da regista a broker, veramente due definizioni che non avrei mai immaginato di poter assegnare alla nostra materia grigia, insomma. In effetti, se lo vediamo in questi termini, abbiamo la fortuna che possiamo decidere noi come indirizzarlo, quindi come meglio desideriamo, senza far fare per forza tutto il lavoro a lui. Esperimenti in laboratorio sono riusciti, ad esempio, a stimolare la voglia di risparmiare e a disattivare l'impulso a spendere, cioè hanno trasformato momentaneamente degli spendaccioni in risparmiatori oculati. Certo. Questo significa che la tendenza dell'uno o dell'altro può essere invertita. Interessantissimo, insomma, chissà che ne pensano i nostri ascoltatori. Allora, avevo proposto un esercizio che avesse come oggetto 100 euro, quindi andiamo subito nel portafoglio dei nostri ascoltatori, vediamo se si vogliono cimentare anche in questo test. Anna da Milano, intanto buongiorno. 800 24 00 24, voleva partire da un esercizio di allenamento della propria mente diverso perché ha qualche preoccupazione. Anna, però vediamo se possiamo aiutarla stamattina. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia, intanto grazie per la trasmissione, perché aiuta veramente. Ottimo. Allora, io ho un problema familiare di Alzheimer, sia la mamma che alcune sorelle della mamma, e vivo con il terrore che c'era in questa brutta malattia. Mm-hmm. Quindi vorrei capire se ci sono degli esercizi da poter fare. Certo. Giornalmente. È comprensibile, naturalmente. Anna, la ringrazio. Ne vuole fare uno con noi di esercizio intanto? Volentieri. Dobbiamo prendere un po' spunto il suo denaro. Glielo facciamo fare quello dei 100 euro, professore Iannoccari? Sì, certo, come no. Si presta, Anna? Sicuramente, anzi, se ci fosse da fare qualche esame di laboratorio sono disponibile. Anna, no. Perché adesso sono proprio la negazione assoluta sul risparmio. Però intanto è molto consapevole della questione, questo credo che sia già un buon punto di partenza, quantomeno non rifugge dalla questione. Professore, io no, che il tema della consapevolezza pure sarebbe un altro grande argomento da affrontare. Da. Cosa possiamo far fare ad Anna, che vuole combattere ovviamente questa propensione familiare all'Alzheimer, purtroppo? Beh, intanto vorrei rassicurare la signora Anna che questa brutta malattia non è ereditaria, per cui c'è una trasmissione genetica inferiore al 2%. E in questi casi si manifesta da molto giovani, per cui non c'è il pericolo che venga per forza la malattia, anche se c'è qualche caso in famiglia. C'è una sorta di familiarità, cioè nel senso che se la persona vive nello stesso ambiente in cui è vissuta la persona che ha l'Alzheimer, probabilmente ne subisce la stessa stimolazione che ne ha subito il parente. Anche perché non è facile, ne abbiamo parlato anche in tante nostre trasmissioni, perché il condizionamento poi magari può chiaramente avere degli effetti. Sì, io darei un'indicazione, diciamo, di massima, una sorta di meta indicazione piuttosto che l'esercizio in questo caso, che vale per tutti in ogni luogo, è quello di mantenere attiva la curiosità, cioè ascoltare, come sta facendo lei adesso, ascoltare la radio, coinvolgersi, pensare, trovare, farsi delle domande, cercare risposte, tutto ciò che consente al cervello di attivarsi e di essere protagonista, perché la vera minaccia alla nostra salute di mente e cervello è quella di appiattirci. Certo. E di diventare pigri o anche di affidarci troppo, va bene, alle nostre protesi mentali. Quindi Anna, intanto si tranquillizzi e adesso, per farla subito preoccupare, le faccio aprire il portafoglio. Pronta? Prontissima. Professor Iannoccari, allora. Facciamo un esercizio per capire qual è la disponibilità a rimandare una gratificazione. Facciamo l'esempio che possiamo ottenere subito 100 euro. Oppure lo sperimentatore ci dice: se aspetti del tempo, per ogni mese che attendi ti darò 10 euro in più. Ma la domanda è: quanto tempo siamo disposti ad aspettare? Anna, che cosa ci dice? 100 euro subito, quindi meglio l'uovo oggi, una bella gallinella fra qualche tempo. Quanto è disposta a farlo crescere questo pulcino? Non molto. Potrei reggere 3 o 4 mesi. 3 o 4 mesi, quindi arriveremmo ad una quarantina di euro per Anna. Che voto diamo alla sua capacità di tenuta di attesa, professor Iannone? Sicuramente è un 8 più questo, perché sì, perché rientra nella media delle risposte che danno le persone, perché questo è un traguardo, diciamo, plausibile per una somma di 100 euro. Ecco, poi, Andrea Pennacchia non penso che darebbe lo stesso voto, vuole già subito dare un giudizio alla nostra ascoltatrice. Poi chiaramente dipende da tutta la sua propensione al risparmio, le esigenze, i bisogni, eccetera, tutto quello che sappiamo, ma insomma. Beh, intanto l'idea comunque di aspettare è già molto positiva di per sé, questo bisogna dirlo. Poi è chiaro che quando si parla di risparmio per investimenti è molto importante guardare all'obiettivo che si vuole raggiungere. Ecco, deve essere chiaro l'obiettivo, perché molto spesso il risparmio in sé viene vissuto come una privazione. Siamo stati un po' subdoli nella domanda, perché non abbiamo posto il tema dell'obiettivo ad Anna. Esatto. In realtà le abbiamo solo detto, vuoi 100 euro oggi o vuoi aspettare un po'? Per cui chiaramente tenendo escludendo tutto il resto del possibile ragionamento l'abbiamo condizionata. Se l'obiettivo fosse stato ti piacerebbe comprare, non so, un oggetto del valore di 200 euro, sei disposta ad aspettare 10 mesi o preferisci avere 100 euro e non avere quell'oggetto? Perché questo è un meccanismo molto interessante, tra l'altro, un meccanismo per capire come il risparmio deve essere in qualche modo comunque finalizzato con un obiettivo chiaro. Che bella combinazione che abbiamo creato stamattina. Sì. E sono assolutamente d'accordo. In effetti non abbiamo posto l'obiettivo proprio per non dare la possibilità di dire aspetto 10 mesi così prendo l'oggetto da 200 euro. In questo caso abbiamo testato proprio l'attitudine a rimandare la gratificazione, ma è verissimo come se dice Se posso, dottor Iannoccari, è proprio questo il punto che infatti vedremo dopo, perché in realtà quando parleremo di io futuro vedremo che le persone non riescono a vedere se stesse nel futuro, e quindi non vedendo se stesse nel futuro è come se non riuscissero a focalizzare quell'obiettivo. Quindi la sua domanda è corretta, cioè preferisci 100 euro oggi o 10 euro in più ogni mese? Posso scombinare un pochino la scaletta? Allora facciamo così, adesso devo sentire il traffico, poi avremmo dovuto iniziare a investire in formati, ma io voglio continuare questa straordinaria contaminazione questa mattina perché vedo che sta stuzzicando moltissimi gli ascoltatori. Adesso fra un po' interroghiamo lei, professor Iannoccari, sul suo io futuro. Naturalmente non lo faremo, però abbiamo ancora un test per i nostri ascoltatori e quindi combiniamo investire informati con l'allenamento della nostra cabina di regia, perché ci sembra un lavoro assolutamente utile anche per allenare al risparmio. Allora, traffico tra pochissimo. Tutti attenti al traffico. Cuore e denari. Allora, scombinando un po' la scaletta di questa mattina, ma in realtà scombinandola relativamente, perché insomma per allenare il nostro atteggiamento ad un risparmio adeguato, per guardare con consapevolezza anche a quello che saremo nel nostro futuro, è necessario anche che il nostro cervello chiaramente mantenga un'adeguata azione di vigilanza sulle nostre scelte. E allora anche di tutto questo parleremo adesso nel nostro appuntamento del giovedì nella nostra scuola di risparmio. Investire informati. Abbiamo fatto un lungo percorso da dicembre toccando le diverse sfaccettature del mondo del risparmio e soprattutto del nostro approccio all'investimento. Ci siamo dedicati all'analisi dell'andamento dei mercati finanziari, abbiamo approfondito le ragioni dei record dei mercati, del crollo dei rendimenti, delle obbligazioni, ma poi abbiamo ragionato anche a lungo sulle attitudini dei risparmiatori italiani, molto portati a loro volta a ragionare in un'ottica di breve termine e con più difficoltà a ragionare su logiche di lungo periodo. Abbiamo capito stamattina che insomma la nostra cabina di regia, così come abbiamo ribattezzato il nostro cervello, possiamo cambiare un po' di questi atteggiamenti, per cui abbiamo chiesto al professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Asso Menzana, di rimanere con noi e di interagire con le riflessioni che faremo con Andrea Pennacchia, amministratore delegato e direttore generale di Ubipra America SGR. Certo, ben ritrovato, grazie, l'abbiamo già sentita prima con qualche blitz nella prima parte della trasmissione, perché il tema che abbiamo affrontato